Dunque, io volevo premettere che non sono assolutamente in grado di mettere insieme la storia del movimento di questi 42 anni, perché in realtà sono movimento mio coetaneo, cioè io nel 69 avevo 14 anni, oggi ne ho 56, per cui il movimento ha attraversato la mia vita e la mia vita ha attraversato il movimento LGBTQI. Comunque non sempre in questo mio attraversamento il movimento mi si è chiamato LGBTQI, ma non perché prima era LG eccetera, perché era altro. In alcune parti ha avuto prevalenza questa componente nel mio sentirmi dentro il movimento, mentre in altri momenti ad aver avuto la prevalenza sono stati altri temi. Questo in particolare negli anni 70 e poi all'inizio degli anni 2000. Nel primo caso, per me allora il movimento si chiamava movimento studentesco. Nel secondo caso, per me il movimento era quello da altri definito movimento no global. In modo diverso però la mia identità, sia il mio vissuto che in altri momenti il mio non vissuto, è sempre passata dal mio essere lesbica ed è stato determinante questo nella mia scelta e nella mia identità politica. Quindi la mia non può essere una ricostruzione, per cui ho pensato, mi limiterò ad alcuni flashback, anche magari non si chiamano flashback, ma ad alcuni, sì, quella roba lì, insomma, relativi ad alcune fasi che ho attraversato, perché il mio vorrebbe essere un tentativo, innanzitutto mio personale, ma che vorrei condividere con quanti e quante si riconoscono comunque come appartenenti a questa mia stessa storia, cercando di ritrovare quel filo rosso che poi a un certo punto è diventato arcobaleno, che poi per me è diventato un filo fucsia, ma che però era sempre quello stesso filo che ha cambiato colore e che mi ha portato ora qua, però era quello. Primo flashback. Questo è un brano di Cooper. Quindi Cooper anni 60-70. Nella società capitalistica la normalità è definita da quelli che possiedono i mezzi di produzione ed è definita unicamente nel loro interesse di classe e le loro definizioni vengono accettate inoltre, anche se non è nel loro interesse, da tutti quelli che vengono disorientati e confusi dalle disinformazioni e dalle interpretazioni fasulle, sistematiche e più o meno sottili nella stampa, la radio, la televisione e nel sistema educativo capitalistici controllati, cosicché costoro non si ribellano contro il modo di produzione e contro i rapporti di produzione capitalistici e sono costretti ad accettare la versione repressiva di normalità che si accompagna a tale sistema. Questo era Cooper ed era uno dei riferimenti teorici di quel movimento di cui ho iniziato a parlare Porpora. Esatto, è l'antipsichiatria sostanzialmente, visto che uno dei temi è anche la psichiatrizzazione della transessualità. Questo intervento io l'ho letto pigliandolo da questo volume che si intitola Maledetti compagni vi amerò, dove compare anche un'intervista a me. Questa era la premessa all'intervista a me. Non parlerò di quella, comunque è un volume che tratta dell'attraversamento degli anni 80 da parte dei movimenti 68-77. Leggo un pezzino dell'introduzione di Romano Giuffrida. Eccolo qua. 100.000 indagati, 40.000 inquisiti, 8.000 incarcerati, più di 5.000 condannati e ancora circa 1 milione di lavoratori espulsi dal ciclo produttivo e, tra questi, tutte le avanguardie operaie delle lotte degli anni precedenti. Sono queste le fredde cifre a testimonianza degli esiti dell'ultima fase della stagione conflittuale degli anni 70, conclusasi nei nomi prima dell'emergenza, poi dell'unità nazionale. Sono qualcosa queste definizioni oggi? La Santa Alleanza di tutti i partiti, di tutti gli apparati militari, di tutto il sistema informativo rappresentò infatti lo sforzo estremo di chi voleva finalmente e definitivamente chiudere a proprio vantaggio lo scontro di classe espressosi per tutto il decennio precedente durante la grande ondata rivoluzionaria, politica, creativa ed esistenziale che aveva investito il Paese e che, malgrado tutto, aveva modificato scenari ed aspettative di amplissimi settori della società. Per farlo, il sistema dovette azzerare, con l'etichetta di anni di piombo, la complessità e la ricchezza di un'esperienza che, unica nei paesi occidentali, aveva dato il via ad una dialettica sociale fatta di partecipazione, di non delega, di presa della parola, sino ad allora sconosciuta. Nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri e perfino nelle caserme, in quegli anni era cresciuto infatti un nuovo soggetto sociale che si auto-organizzava, che gestiva spazi sociali e consultori, che costituiva cooperative, che realizzava giornali, tra l'altro tra quotidiani a tiratura nazionale, libri, controinformazioni, radio, dischi, che inaugurava saperi e scienza alternativi, che sperimentava percorsi esistenziali diversi mettendo in discussione famiglia, sessualità, educazione e culture. Flashback numero 2. Cambio libro. Il flashback numero 2 è inserito in quest'altro libro che forse conoscete di più perché è uscito 3 anni fa, mi sembra, We Will Survive. E qui invece mi autocito, ma non perché un'autocitazione, era perché era inutile riscrivere la stessa cosa e poi non sarebbe più stato un flashback. Questo serve ancora. Vedi la vecchiaia che continua. Sì, questo è una cosa che ho scritto allora, non ve lo leggo mica tutto, solo flashback, si intitolava Uscire dalla vergogna. Quando nel 1985 entrai per la prima volta nella sede dell'allora Arcigay di Verona, oggi Circolo Pink, avevo da poco compiuto 30 anni e ancora non sapevo che da lì sarebbe iniziata un'avventura che con alterne vicende continua ancora oggi. Qua scrivevo più di 20 anni dopo, appunto più di 25 anni, se vado avanti un altro po'. Qua saltiamo un po'. Diremo da qua. La più normale esistenza per una lesbica, insomma, vivevo. Di provincia a metà degli anni 80. Eppure, la politica aveva costituito una parte fondamentale della mia vita. E questo fin dal 1969, ma io non ero mica Stonewall, quando, a 14 anni, frequentavo il liceo Valdagno e manifestavo al seguito degli operai della Marzotto e degli studenti di sociologia che, da Trento, calavano nelle vallate venete. Operai e studenti uniti della lotta, questo lo slogan principe della mia adolescenza politica. Slogan che trovava significato nella riflessione sulla differenza tra me e i miei compagni di scuola. Quasi sempre figli di professionisti, oppure come me figli di operai, ma con il desiderio, per nulla nascosto, di effettuare quel salto di classe sociale promesso al tempo ad ogni ragazzo e ragazza di umili origini che si iscrivesse al liceo classico. Io ero altro, anche se non sapevo bene cosa. Ero altro in tanti sensi. Ero una donna che non mirava al fidanzato né all'eccellenza negli studi, i due modi di essere previsti per le ragazze della mia età. Non ero della cittadina Valdagno, ma del paese Requaro, che stava 10 chilometri più in su, al finire della Valle del Lagno, dove alla mancanza di un cinema che non fosse quello dei preti, si aggiungeva un forte senso di appartenenza a quelle montagne, che si esprimeva nell'essere il comune più comunista del Vicentino, comunismo che 20 anni dopo si sarebbe trasformato in leghismo spinto. Sapevo di essere lesbica, ma lo rimuovevo. Non c'erano lesbiche in quel mondo, non sapevo neppure che si chiamassero così. Salto il pezzo di Padova, cambiai città e mi fidanzai con una donna, con quella stessa che mi avrebbe condotto 8 anni dopo a suonare al campanello della sede dell'Arcigay. Fra il 77 e l'85 trovai lavoro, feci politica a Radio Popolare Verona, in una breve stagione di rinnovato entusiasmo, ma non potevo davvero più fare una politica dimezzata. Con il cuore nel frattempo avevo sentito, vissuto, scelto, non ero più un cane sciolto, ero una donna lesbica. La Cigay di Verona faceva politica a tutto campo. La sua appartenenza all'Arci forse me l'ha reso il posto giusto al momento giusto. Non ero più troppo giovane né troppo montanara. Avevo già da tempo accettato il mio lesbismo. Lì non ero troppo comunista. Da lì sarei diventata anche finalmente donna. Per la prima volta nella mia vita probabilmente non ero più troppo qualcosa. Flashback numero 3. Andiamo al 1996. Al Congresso Nazionale dell'Arci Gay del 1996, Rimini. Leggo da un documento che si intitola Contributo dei circoli Arci Gay e Arci Lesbica di Firenze e Pisa al Congresso Nazionale dell'Associazione Arci Gay e Arci Lesbica Rimini 1996. Sarebbe stato poi il congresso da cui sarebbero usciti tutta una serie di circoli, fra cui questi due che avevano presentato questo documento. Flashback. Purtroppo non possiamo non ricordare come spesso tanti gay e lesbiche si siano lasciati ingannare dalla propaganda di forze politiche che si spacciavano per libertarie e che invece hanno contrastato con le loro scelte di campo e con la loro prassi quotidiana una qualunque emancipazione, se non liberazione, dei gay e delle lesbiche. In un contesto mediatico che ci parla di crisi delle ideologie e che poi ci impone con violenza subliminale un'ideologia del pensiero debole di massa, vogliamo sottolineare l'identità di sinistra, ossia progressista, libertaria e antitotalitaria di Arci Gay e Arci Lesbica. Riteniamo che all'interno delle forze progressiste e di sinistra un numero sempre maggiore di esponenti politici stia finalmente arrivando alla consapevolezza dell'importanza dell'apporto gay e lesbico a un progetto di liberazione globale ed è a partire dalla coscienza di questa globalità dell'agire politico che Arci Gay e Arci Lesbica deve rielaborare la sua prassi. Sono mancati finora i confronti con il mondo dell'associazionismo e del volontariato, con i movimenti di base, con quanto di nuovo è stato finora espresso dalla società. Non si è riflettuto abbastanza sulla portata politica di eventi come quello veronese dove se il Comitato Alziamo la Testa è riuscito a portare il caso Verona all'attenzione del Parlamento europeo, anche organizzando la prima manifestazione di massa pro gay e lesbiche in una delle città più ostili d'Italia a queste tematiche, e ciò è stato possibile grazie a un lavoro capillare di confronto e dialogo con tutto l'arco del volontariato, dell'associazionismo, dei movimenti giovanili, all'interno e anche al di fuori, dei partiti della sinistra. È proprio questo, secondo noi, che dovrebbe essere il lavoro politico di Arci Gay e Arci Lesbica. Un confronto continuo con interlocutori reali e non con strateghi di partito, preoccupati dell'omofobia di un possibile elettorato moderato e moderatamente omofobo. Un impegno di produzione teorica che, partendo dalle pregiudiziali antifasciste, antirazziste e antiproibizioniste e dall'identità gay e lesbica, elabori un progetto politico dentro i circoli e gli spazi di dibattito reali all'interno dell'associazione, senza dare nulla per scontato. Secondo pezzo del medesimo flashback, riteniamo utile piuttosto analizzare il lavoro svolto a Verona per assumerlo come patrimonio del movimento e quindi della nostra associazione. Come abbiamo già accennato, essenziale è stato un intervento capillare di confronto e di informazione con la base di movimenti, partiti, associazioni, la presenza nei loro luoghi, il tentativo sincero di costruire con loro un percorso che unisse tutti e tutte in Piazza Bra. Altrettanto importante è stata l'autonomia politica dai partiti della sinistra, che non si è certo evoluta in trasversalità, ma nella capacità di elaborare e portare avanti una politica di sinistra come soggetto autonomo. Tanto che poi Rifondazione Comunista e anche il PDS hanno dovuto rivendicare come loro patrimonio questa politica, se non altro trascinati dalla loro base che era diventata la nostra base. Questo ha reso possibile che la presenza in Piazza Bra di altri soggetti a fianco del movimento gay e lesbico non fosse generica solidarietà, ma assunzione della medesima causa. Al di là del riconoscimento della vicenda di Verona, possiamo trarre un'indicazione di metodo, di azione. Dobbiamo anche considerare che la capacità di penetrazione nelle vicende politiche, sia in senso locale che continentale, ha presupposto la correttezza di un'analisi politica. Si tratta di un'analisi che ha letto nella destra la volontà di colpire gay e le lesbiche per colpire il concetto stesso di autodeterminazione. B. Ha individuato nella forza della propria autodeterminazione personale farsi arrestare pur di non perdere la propria dignità il punto di partenza per una battaglia politica. Ha riconosciuto il proprio isolamento. Il presidente della CGI Arcilesbica Nazionale si è rifiutato di fare un comunicato stampa sul loro fermo. D. Ha cercato le alleanze non fra i potenti ma fra i perdenti, i gay e le lesbiche di altre zone, la base dei partiti di sinistra, le donne, i centri sociali, eccetera. E ha alzato la testa assieme agli e alle perdenti. Il risultato? 5.000 persone in piazza in una città di 200.000 abitanti. Un movimento analogo in Italia avrebbe portato in piazza 1.250.000 persone. Un invito al Parlamento europeo, contatti qualificati con altri gruppi europei ed americani, la vicenda sui giornali mondiali, ma soprattutto la questione gay e lesbica che entra a far parte dell'ambito dei diritti umani. Raccogliere l'eredità di questa vicenda presuppone quindi non ridurla a un'emanazione dell'arcigay e arcilesbica, ma coglierne la differenziazione. Solo così l'internazionalismo e il provincialismo di cui si compone potranno affiancarsi all'internazionalismo e provincialismo che negli ultimi due secoli hanno visto protagonisti i paesi, le classi, le identità che via via hanno raggruppato, hanno rappresentato e rappresentano il futuro, i neri, le donne, gli indiani d'India, gli indiani d'America e infine il Nicaragua e ora il Chiapas. Solo così il movimento gay e lesbico può appartenere al futuro. Ultimo flashback. Flashback 4. Questo invece è tratto da quest'altro volume, che è Gay, Lesbiche, Trans e Neoliberismo, che è un volume che Azione Gay Lesbica ha stampato dopo il Social Forum Europeo di Firenze del 2002, dove con altre realtà che poi più o meno sono quelle con cui facciamo breccia, ma comunque non solo, un workshop che appunto aveva questo titolo, Gay, Lesbiche, Trans e Neoliberismo. Leggo un pezzino molto breve, tratto dal documento che presentò Azione Gay Lesbica nel proporre questo workshop. Se fino a pochissimi anni fa era estremamente raro che sui media si parlasse di omosessualità, ultimamente le cose a poco stanno cambiando e si assiste sulla stampa e in televisione a una crescente presenza gay, meno lesbica, in vari tipi di produzioni, dal talk show alla fiction. Questo ha senz'altro una grande portata positiva, perché per la prima volta fornisce modelli omosessuali anche in regioni geografiche e sociali che molto difficilmente avrebbero potuto essere raggiunte da altri tipi di messaggi. Ma bisogna anche riflettere sulla qualità di quei modelli proposti. Essi appaiono infatti fortemente omologati. L'immagine della lesbica è fortemente omologata al modello gay, anche se permangono sacche che propongono false immagini di false lesbiche funzionali al voyeurismo eterosessuale maschile. Per il gay si tratta di uno stereotipo che nasce dalla necessità di rassicurare il più possibile. Vediamo dunque un gay che innanzitutto è un giovane e ricco professionista e soprattutto il massimo della rassicurazione è accoppiato. Questo sia quanto sia forte la portata tranquillizzante del sistemare il gay in una struttura di coppia lo si desume anche dal fatto che i primi tentativi di giurisprudenza pro-gay che siano stati promulgati in Italia non sono norme antidiscriminatorie, come sarebbe lecito aspettarsi, ma interventi volti alla legittimazione delle coppie, anche se spesso di scarso valore pratico per non urtare troppo il mondo cattolico e non solo. Basti pensare ai molti registri comunali delle unioni civili. Questo modello rassicurante appare quindi fortemente ricalcato dal mondo eterosessuale ed espone i gay e le lesbiche a vari rischi, dalla perdita di un patrimonio culturale tipicamente molto variegato, all'omologazione degli stili di vita e la conseguente intolleranza verso coloro che non si uniformano, spesso definiti in senso spregiativo quelli che ostentano. Si rischia cioè di non aver imparato la lezione e, dopo essere stati per secoli soggetti discriminati, diventare soggetti discriminanti nei confronti di coloro che si pongono fuori dal modello omosessuale prestabilito per scelta e o per mancanza di potere d'acquisto. Come infatti già evidenziato in precedenza, la ricchezza diviene sempre più parte integrante dello stereotipo di gay preconfezionato, con il rischio che chi non la possiede, ovvero la maggioranza dei gay e delle lesbiche, risulti comunque esclusa dai diritti. Oggi sarebbe da aggiungere anche la nazionalità. Il resto, 2002, non c'ho più flashback, perché penso che per me si è rappresentato da quello che ha fatto, sta facendo, facciamo breccia, quello che ha fatto, sta facendo Azione Gay Lesbica, rappresenta l'oggi, quello che stiamo facendo qua, rappresenta l'oggi e spero possa rappresentare anche il domani, dove ci sarà da coniugare quella che è la Fiat e quindi il tema del lavoro, il razzismo, il fascismo, il controllo, che però hanno percorso questi miei figli. Faccio un'ultima citazione per finire, ritorno quindi al primo libro, cioè quindi a questo libro sugli anni 70-80, che ho lasciato di fatto qua pronto. Anche questa è una citazione dal curatore del testo. Per indorare la pillola sono stati inventati i magnifici anni 80, durante i quali gli stessi apparati precedentemente preposti alla repressione ed eliminazione delle forme antagoniste hanno provveduto alla rimozione, o meglio, alla cancellazione della memoria di un'epoca e di ciò che nella stessa gli elementi migliori di almeno due generazioni avevano prodotto. E ancora? Definirsi, lui dice, virgolettato, comunisti, o quantomeno, virgolettato, antagonisti oggi, stiamo parlando 1993, è proprio solo nostalgia, ribellismo generazionale, irriducibilità degli sconfitti, come sociologi e imbonitori di corte continuano a ripetere? O non sarà che questo raccontarci la fiaba del nuovo mondo e del suo nuovo ordine altro non è che un diverso aspetto, quello multimediale, della strategia difensiva del capitale? E se così fosse, dato che non ci si difende dai fantasmi, ciò non starebbe forse a testimoniare dell'esistenza di una forza antagonista non pentita e soprattutto viva, presente e attiva, che, come la famosa talpa, ancora lavora, consapevole di aver perso una battaglia, ma non certo la guerra? E io questo lo dico. Questa citazione è del 93, ma credo che possa benissimo essere del 2011. Finito. Ora potete contraddire. Posso aggiungere una cosa da una che mi sembra sia una generazione nel mezzo delle persone.